Con la rabbia di una vita che non hai mai capito a fondo, col pensiero che la vita non la vivi a tutto tondo, e che forse, forse non sarai mai primo né secondo, con la certezza che anche oggi avrai contro tutto il mondo. Vedo mamme la mattina recarsi al lavoro, ma all'asilo il loro figlio sarà poi da solo, tra maestre spostate ed il loro uomo nero, e gli abusi sessuali di cui faranno mistero. I politici, lo sai, affollano poi il Parlamento, votano tante cose, ma è un solo emendamento che faccia davvero un cittadino con pensano solo a se stessi e di noi stanno ridendo. Li abbiamo votati e quindi siamo noi gli stolti, gli unici ad avere colpa dei loro raccolti, gli unici responsabili dei futuri maltolti, della coca che assumono e ciò in cui saranno coinvolti. Pensaci e rispondi, in cosa credi e per cosa lotti, perché se ti vedo io penso che forse te ne fotti, e forse non sbagli, forse fai solo ciò che devi, ma poi non lamentarti dei miei pensieri grevi. My name in the streets buzzing, buzzing. Speakers in the Jeep street buzzing, buzzing, buzzing, buzzing, buzzing, buzzing. The speakers in the Jeep street buzzing, buzzing. My name in the streets buzzing, buzzing. Speakers in the Jeep street buzzing, buzzing, buzzing, buzzing. Ancora vedo bambine costrette alla prostituzione, ma non è la Thailandia, succede nella mia nazione. Se ti fingi cieco forse scriverai la percezione, e lo schifo che è intorno non ti creerà confusione. Ma non credo che tu possa vivere sempre così, e non credo che l'unico a vederlo sia questo MC. Ma sembra che solo noi si veda che il mondo va così. Qui gira tutto intorno ai soldi, e se non ne hai, that's it. Intanto c'è già pronto qualcuno a farsi saltare in aria. C'è sempre un nuovo folle con un'idea sanguinaria. Ci sarà sempre una folla con qualche idea rivoluzionaria, ed il coltile s'affolla sempre più per l'ora d'aria. Una bomba, per esempio, è ancora in azione. In Palestina è sempre guerra, è sempre devastazione. In Israele c'è sempre un comando pronto all'azione, e il petrolio è sempre lui la prima preoccupazione. I potenti se ne fregano di noi povera gente, sanno bene che alla fine noi non contiamo niente. Una volta votati ci danno anche del deficiente, ed hanno ragione, da noi hanno sempre vinte, sempre vinte. Già detto, non pretendo certo d'essere io a renderlo perfetto, ma se ognuno curasse anche solo il proprio pezzetto, non sarebbe poi male anche con qualche difetto. È la cosa che ambisco e che spero di più, è la cosa che forse dovresti fare anche tu, è la sola cosa che può fare la differenza, ma dobbiamo farla tutti, altrimenti pazienza. Lasciamo che il mondo si popoli ancora di zombie che mangiano la gente divorandola a morsi, che le nazioni cadano sotto i nostri rimorsi, perché nessuno avrà fatto nulla per riuscire a imporsi.